Ho un pensiero fisso che mi gira per la testa, gira in tutto intorno e poi mi gira come giostra. Gira che rigira, resta questo il chiodo fisso, e più mi chiedo come possa restare un chiodo fisso se si sposta continuamente. Nasce nel cervello, prende il cuore, attraverso il corpo e poi la mente, istantaneamente impotente alla vibrazione. Il corpo si muove ma non comandi l'azione. Ho un pensiero fisso che mi gira per la testa, solo che la vita che conduco è troppo spessa. Se la vita che conduci io te lo riflessa, forse anche tu c'è quel pensiero che ti stressa. Ma un pensiero fisso che ti gira per la testa, se la vita che conduci non è proprio onesta. Se quello che cerchi è quello che poi cerco io, puoi restare fresco e darti pace che ce n'è un fottio. Non è detto che le risposte puoi trovarle solo dentro te. È perché non usi il cuore. Non è detto che le risposte puoi trovarle solo dentro te. Non sai leggere il messaggio, è perché non usi il cuore. Ho un pensiero fisso che mi gira per la testa, oltre a quello di essere stilosa e avere i rasta. Ho un pensiero che mi assilla e mi fa male, ho un pensiero che mi gira in testa da dimenticare. Ho un pensiero fisso che mi gira per la testa, tipo i mega sconti dove ci fai sulla cresta. Prendo tutti i soldi, ti organizzo la tua festa. Ora tu hai un pensiero che ti gira per la testa. Se hai un pensiero fisso che ti gira per la testa, qualcosa è andata persa, non ricordi dove l'hai messa. Se elabori la situazione solamente fresca, capisci metà, mi resta spiegarti la cosa stressa. Ho un pensiero fisso che mi gira per la testa, lui ha un pensiero fisso che gli gira per la testa, lei ha un pensiero fisso che gli gira per la testa. Messa come sei messa, aver pensiero fisso nella testa. Ho un pensiero fisso che mi gira per la testa, lui ha un pensiero fisso che gli gira per la testa, lei ha un pensiero fisso che gli gira per la testa. Messa come sei messa, aver pensiero fisso nella testa. Non è detto che forse puoi trovarle solo dentro te. Messaggio è perché non usi il cuore. Non è detto che le risposte puoi trovarle solo dentro te. Non sai leggere. Messaggio è perché non usi il cuore.